Sì, ma non ho capito ma cosa ha bombardato il Venezuela in base a cosa, non ci ho compreso. Ah, che è un guerrafondiero. Già, è un guerrafondiero. Ma Trump però, a chi chiedo? Comunque quello là ha detto che adesso, secondo cosa succede, è un casino, Però non lo so, a chi accusa che... Ho visto il video, sono arrivati gli elicotteri, grazie all'aereo, ne ho cominciato a bombardare, la gente con i telefonini, si sono tutti guardi, senza il gas, cioè fuori di testa. Sì, so... Non so cosa so convenendo che sta gente. Dunque. Mai si vecchiani, avvero, mai si vecchiani, tutti canti. Tanto, dai, crebbiamo, vabbè, dai, tanto crebbano i buretti, un parannuemi, cosa pensi? Io non crebbano i buretti, vita di Calvino. Chi se va a che ci domani dei rigotti in Venezuela, un caffè pacco di zucchero e ha fatto un casino di... Ehi, noi vogliamo buffonenti, L'ho seguito poco fa un pezzo perché non so come ci di Facebook il telefono, poi stavo guardando un pezzetto di TV a vedere se invece nuda, no, e niente, quindi ha detto che stamattina praticamente ieri notte alle 2 o alle 3 hanno bombardato il Venezuela. E vabbè, quello l'hanno detto al telegiornale anche stamattina, capito, quello l'hanno detto anche stamattina. Ehi, mi aspetta che ero prendo una cosa qui. Un attimo, capo. Vai tranquillo, vai. E allora, Franco! Vedi, capo, una schienatina mi ho fatto fare. Con la Nutella? No, fontina e pancetta. Buona, bella. Buona, fontina e pancetta è buona. Certo, ma è un problema che avanti, prima di mangiare mi devo appena calmare, non lo so, io grazie a me di la neve mi vado in sclerane, non ne gioco, vedi sul gabbo. Allora faccio solo la magliettina in nato, che me ne ha girato di lì. Cioè, sto così bene, dalla butta dei tardi su così bene. Certo, c'ho le gambe, il bacino, da tipo da... La sezione lombare non risolvo, non funziona, ragazzi. Da voi mi basta una piccola corrente d'aria, uno smovimento di nequi di brinchi mi va di fare. Ascolta già, ma coperta termica non ne hai? Ehi, alla notte c'ho la, come si dice, lo scaldassonno. Ma la notte più o meno, però ma se c'è una zettura me ne cura in terra, perché l'ho messo tipo un'ora a due e lo faccio scaldare, poi si spegne e da che mi si gocco lo rimetto a uno di nuovo e dormo un po' bene, però come ci passano quelle due, tre ore, capo, me ne cura in terra. Non lo so, a dolori me ne alzo, vado a fare un bagno, la pipì e magari sembra che sto bene. Però c'ho sempre le gambe compresse. Da voi mi sdraio, magari trovo la posizione massaggiandomi piano piano, magari mi addormento di nuovo. Mi scendo d'ora, a Baidu ci sono passati anche 2 ore e mezza, 3 ore. Cioè di 3 ore in 3 ore vado io, non ne gioco, mi vado a sclerare. Perché... Poi per esempio sto bene la mattina, cazzo, abbini una gnanna, un baccone, una cosa, come sai, stanno magari che escono, che tornano, che magari gaffi, no, io bacco il rubolo nord, no, il rubolo nord, bacco il rubolo seve, no, eppure mi ho messo c'è tipo il divisorio di legno in questo camerone per le scale di giù, ma ne sale l'aria fredda da giù e quando passa negli spifferi che arriva a livello di ginocchia e caviglie, cazzo, mi scebbi deggio, a mi scebbi deggio. Già, però organizzati qualcosa tipo, secondo me proprio tu hai proprio la camera fredda di lì, tu hai la camera fredda già, a chi è impossibile, tu hai proprio la camera fredda in Kiwi. No, che c'è la stufa a frelle, sta andando in questo camerone. Però se io sollevo la mano, la sento l'aria calda. Ma se io la mano la metto per terra, sento l'aria fredda in terra. Cioè, ci sono due a chi l'aria gaga da senare, capito? Mentre tipo l'aria e tutti i movimenti che ci sono giù ne salgono qua, passano sotto il legno, lo spistolo della porta, ed è come quando uno succhia, no? E quindi l'aria è ancora più fredda, perché se c'è tipo, cosa ne so, quando era tutto aperto c'era una specie di tenda e tutto più freddo, uno stira, ragazzi, uno stira tutto più freddo, da quando hanno buttato sul barnello di legno c'è un freddo in occhio a livello di birichi, che è una cosa incredibile. Aiaiaiaia. E sono da le baciamballo, non viene, no? Ma cosa, da voi vedi su mattone, qui c'è un mattone ceramico qua per terra. Guarda ragazzi, quando vedo usori non si boccani su gamarò. A che rifletti, visto che devo usori in terra e mi va da spicchio e mi va di giro. Ed inverno invece, cazzo, deve essere che attira lo freddo questa ceramica. La ceramica la tira sì lo freddo già. La ceramica, tu basta prendere e guardare il marmo, cosa fai? Tu vai da Roma e marmo, cosa fai? E poi mi metto la ripuglia, freddare tu attira. Il marmo attira il freddo in una maniera assurda. Lo so, questa casa qua è fatta di taganta maimaru, il pavimento in terra, quindi il camerone di giù che sale qua è di marmo, la camera da letto di mamma è fatta di marmo, è tutto un unico pavimento, la cucina, tutti gli osso, è tutto maimaru. Tu immaginai già di d'inverno, no, io non ne so. Pago, non ne gioco. D'estate si sta un po' bene, perché si sta un po' bene. Perché mi ricordo che quando mi rientravo molte volte d'estate che c'era caldo, come rientravo me ne riuscivo di nuovo. A chi non si butti a stare, no, che zira un forno crematuro. D'estate si sta bene perché il pavimento è freddo. Cioè il materiale del pavimento è freddo e si sa di bene. Ma d'inverno che si deve altrimenti da un freddo. Allora c'è la stufa pellet qua ed è sempre andente. Io me ne accorgo che quando aumenta il motore vuol dire che sta entrando aria fredda. Infatti entra aria fredda e aumenta il motore. Scalda un po', però scalda a livello di scrivania, a livello della scrivania al tetto scalda, dalla scrivania a terra è freddo. In cameretta c'ho la pompa di calore, se tu gridi, quando fasi umido, non ve la fasi a caldini, non lo so, è caldo sempre, la metto a 25, a 26, se la metto a 26 non scatta mai, se la metto a 25 deve essere che forse raggiunge un po' di tempera, perché magari non lo so, e allora attacca e riattacca quando deve attaccare e riattaccare, ma se lo aumento di 1-2 punti il caso è sempre andando e non ne stacca mai ne stacca, perché entra praticamente dalla testata del letto, diciamo, butta l'aria calda, arriva tipo davanti, c'è la porta, anche se è chiusa, mi ho messo anche quel soffietto di polistirolo, cosa è, nella porta. Dal fianco della porta, ragazzi, basta lo freddo, quindi entra un po' di aria fredda e quindi l'aria calda che manda tipo davanti alla scrivania, diciamo, di cameretta, torna indietro e rimane fredda. Adesso cos'altro tu freddo io? Dormo quella notte, dormo con la guffietta, non vi credi tu? Adesso tu fumo la bocca, dici? Quando era minore a casa di mamma, dicevo fumo la bocca in cameretta, Se te lo sto dicendo, allora, prima di Natale, Cazzo, non riesci a stare. Non riesci a stare, Gabby, mi ho preso la sciarpa, mi ho messo la sciarpa, mi sono tappato, poi non lo so, non riuscivo a trovare la posizione con il cuscino e poi ho scoperto invece, praticamente, quando appoggio la testa sul cuscino, metto la mano tipo sotto il cuscino a fianco alla spalla e poi con il pollice giro il cuscino tipo sotto il collo, dai, a sotto, e così mi rimango, come si può dire, in assetto giusto. Però se mi muovo da buon giorno a 2-3 mm, cazzo, mi devo rigirare di nuovo, mi devo rimettere, tipo appoggiare bene la testa, mettere la mano a livello della mandibola e della spalla e poi con tipo la mano e il pollice cercare di girare il cuscino un po' in sotto, in modo che mi fa un po' di spazio tra il collo e la spalla, lo sai. E allora appoggia bene la testa e rimango, e allora dormo bene, però poi mi fa incavolare che magari sono addormentato, tipo non è gioco che non te ne abbisi, cazzo, ti svegli di sovrassalto, tipo un po' freddo oppure l'umidità oppure non lo so, e me ne devo bisare a chi è inutile, sto qui a destra a sinistra girandomi, mi rompe, mi fa sclerare, me ne devo bisare. Beh, adesso con questi con la sciatica mi ricordi da Uritto, mi butta giù dal letto a me sta sciatica, sto dove la sciatica quando mi viene mi fa dannare, mi butta giù dal letto, porca miseria. A voi si mini peso, questo ritre di manzano, boh, mi posi lo divano, ma nuda, non ve nuda che tenga, non c'è niente che tenga. Casino è un casino, so questi dolori, boh. Comunque già di lì tu è freddo perché c'è proprio il pavimento freddo, c'è proprio il pavimento freddo in quella casa, tu è freddo paghisso. Troppo, ma cosa fai? Rimattone, diciamo. Il discorso è anche grave, che io sono tipo in mansarda, io sono qui la soffitta, dimmi, va. E poi la stanza mia deve essere la più fredda che vera della soffitta. A chi mi ricordo quando ero ragazzino, io salivo perché era alta, come soffitta è alta questa. E giocavamo a pallone con proprio mio fratello. Ci avevamo fatto una porta, un coso, un pezzo di rete vicino da uno di quei cosi dove tipo mettevi i bambini dentro per giocare. Abbiamo uno di quei subicci e abbiamo fatto il coso di legno nuovo dietro, lo usavamo tipo porta per giocare a calcio. E niente. E praticamente poi abbiamo fatto la mansarda, tutte le camerette, il soffitto è fatto di calcestruzzo con le tegole, con quel calcestruzzo e i pallini di polistirolo, ma normalmente non ci diciamo. Comunque è un calcestruzzo di verso cui ben tardi, boh. Verso cui ben tardi, fredda le due. E di più, d'estate qui dalle 5:30 in poi di pomeriggio non ci puoi più stare. Io in cameretta non devo succare, devi uscire in ogaro gamarò. Invece a fare tipo mezzo al contrario, devo usare un po' più i gamaroni, perché se entro in cameretta mi ghiaccio, anche se c'è il coso acceso, però a livello di terra è sempre freddo, sempre freddo. Magari è proprio, la situata sbagliata, la camera. Ma il sole quando ti tocca a te, la mattina o la sera di lì? Il sole tocca tipo il pomeriggio dalla 1:30 in poi, diciamo, dai, perché rimane in facciata al golf come in tramonto, va. Allora vedi, non ti tocca mai sole lì, cioè se ti tocca da 1:30 in poi d'inverno, e cosa pigli? 3 ore di sole in chivi, già lo credo che è fredda. Si te lo so con i zeni, ed è un casino, perché praticamente io sono, la camera è di fronte al golfo della Ginara, poi dietro di tazzata del letto non c'è neanche una casa, e andi sulla rubetta, lo sai come ci si fa questo muro di... il muro del letto? Ui ui ui, agabbi, diventa come essere un ghiaccio. Infatti mi ho fatto fare da Davide un legnetto con del velcro, me l'ha tassellato nel muro, e mi ho comprato una specie di tipo tappettino strano, in modo che quando c'è praticamente si appoggiano i cuscini, perché i ferri del letto me l'ho tolto. Me li ho tolti a chi, da chi me ne bisavo, un casino mare, era un casino, e io ero sempre abituato senza tipo la cornice del letto, diciamo, da. Ce l'avevamo in legno prima. Poi l'accusa, questa è bella, di fare un battuto, comunque fino a quando avevo la schiena intera c'era. Dopo che mi hanno tipo rotto la schiena, gli ho detto cavami negli silverri a chi io i noghi scendendo, ma se sto male con le cusce, se non è nel tratto di tutti gli tubutti, ma qual è il letto, cioè, sono in tutte le camerette, cavami io, non ne voglio, non mi interessa, non ne voglio, cavami io. E me l'ho fatto studiare. E niente, poi c'ho un plaid tipo in sintetico, rimane con il lenzuolo di cotone e tutto di cotone. Già arriva una tessura, la notte è vero freddo, come è tutto io alle 3. Prima mi svegliavo tipo alle 2:30, va mi c'è da ridere. E se magari dormo un po' di più mi sveglio che sono le 4 o le 4 qualcosa. Se ho un pezzo di spianata, dopo mangiamo un pezzo di spianata, di vaga che cosa, non lo so, a chi si non è, cioè pare che me ne bisogna senza energie. Eppure sono a posto, solo che come ci si fredda la schiena e le gambe, Gabbi, sai Maria, chi lo freddo è feo. Abbuffonendisi, che lo fa, qua è brutto il caldo, perché il caldo è, il troppo caldo è brutto, però già, pure lo freddo, soprattutto uno dice mi tappo, ti tappi, però quando lo fa freddo il lusso, va freddo il lusso, non c'è nulla di qua, non c'è niente da fare, porca miseria, è un casino, cosa vuoi ti dica? Vabbè, Franco non va a far sopra a chi fa freddo, non è vero, a chi ha detto tutto quanto Lucaro che lascio fa pelle, ti dirà quando vai in radio e alza magliettina, ma non è che cogli, tu lo sai la cosa. Perché sei abituato così, ma io non ne soffrivo mai, capi, né di caldo, magari un po' di freddo, ma se venivo giù botto una cosa e sta giù bene, poi magari cosa ne so, mi bevevo un cicchettino di Montenegro, qualche cosa ci capitava di Roma, ma giusto per scaldarmi un po', e poi stavo bene, cioè magari mi bevevo un goccettino di Montenegro, tipo per un ferro me lo dico io, cicchettino, quando proprio la tempera tranquilla gli rimanevo, allora mi potevo bere cosa ne so, un bicchierino di vino, una bottiglia di birra, c'ero al bar dall'amico mio. Se no di resto io non ne soffrivo mai, da quando mi hanno educato la china, io vado sempre lo freddo lo scherzo, lo freddo lo scherzo vado da, ma fai bene. A chi lo freddo devi venire a Eddi, beh dove è tu giunto? Ma se quando mi alzo un bel volto, mi metto a sborbottare, brutto dottore passato, dottoressi besti di merda, i ripidari siti di giganti, ladri e mignotte, la cadimene a Sandova, ma cosa c'è già? A Vituba, cosa c'è? Non vedi se vuoi sempre a Duro, ma tu hai avuto, ma dice nulla di sì, nulla da, perché tipo molte volte c'ho sul comodino c'ho una battitina di legno, che molte volte uso tipo quando mi sdraio, no, per tenere la ciabatta dove c'ho la garza, in modo che non mi si attacchi tipo la garza al verso della ciabatta, allora uso il legnetto per tenere la scarpa, la ciabatta, e me ne farò di interrare. E poi in più mi ha sentito sborbottare, poi magari deve essere alzato anche lui, ed è salito, mi ha detto, cosa, ma... Ha detto, ma cosa, vado qui sempre a 2 ore, me ne ha in terra, non è gioco, va giù freddo. Ma no, mi pare si casi me, però il tuo gozo è carlene. E la gente è carlene, è che tu sei in piedi, ne intendi, a pittore, a faccia, a rugallo, intendi. Però la gente, se ti sdrai, la giudizio, e stai 5 minuti, certo, la prima cosa di si ghiaccia ne sono bianca dei bici, da poi di si ghiaccia nei ginocchi, cazzo, poi ti si ghiacciano tipo gli zinchi, questi cose così, e io sto sempre tipo massaggiandomi, tipo facendo una specie di linfodrenaggio, e a un po' di volte mi addormento così, però io gioco sempre soffrendo, una lotta continua, io gioco un addo con un mezzo, come si dice, con la patologia mia, diciamo, dai, che non influisce, no, non mi ha mai dato fastidio a me né niente, non mi ha mai pesato in nessuna situazione. Cazzo, ma da quando mi hanno educato la china, io sto scendo di testa, nel senso che magari mi dicevano ci vuole tempo, pazienza, perché sono cose un po'... E vabbè, cazzo, è 1 anno, 2 anni, 3 anni. Cazzo, Ravini, cazzo, le gambe si sono un po' atrofizzate perché i muscoli non funzionano. Io le faccio funzionare a chi devi funzionare. E l'unica cosa sono i piedi che non hanno questo movimento che devono avere. E quindi il dolore è concentrato tutto dalle caviglie che mi sale ai glutei e ai nervi sciatici, capisci? E alla schiena, a metà schiena. Ed è un casino niente. Oi, oi, oi. Il cura che fa il capiteggio a vero, umana chissi, per carità, per carità, per carità. Il cura che fa il capiteggio, umana chissi, battaglia. Ma vedrai che già entrano i buruchissi di fidari, già entrano i chissi dottori, perché con tutti i travizi che vanno, le cose sono due mie, o entrano e allora pure sani cosa vuol dire, assicurano a dolori e a sammari e rifare a ferraio direttamente, oppure andare più bene mi fa come stanno fatto allo zio di chi studia opera da me. Non so cosa ha combinato, comunque ad Alghero, era ad Alghero questo qua, questo medico, Borton, dottor Borton, forse lavora in chiesa, ortopedico. Bravo mio, ma tanto è lavorato. Però deve essere che anche lui ha sgarrato con qualcuno. Comunque ad Alghero, nell'anno bigiardo, e l'anno di tutto quanto raspira polvere che a quelli miei. E più da pure giunto il Parkinson, abisumere, su quanto non lo so, non lo so cosa va, se è vivo, se non è vivo. E quello è lo zio di Doria, Borton. Infatti, Doria era un bel liado allo zio. E poi non sono così da tutti, si sono ubriati malamente. Quindi, Borton era l'annunziata perché nel 2007, quando mi hanno tamponato a Porto Torres, vicino alla... Galeone, di fronte c'è il delfino in acqua, mi hanno tamponato lì, mi hanno semifratturato la testa del femore. Comunque sono andato a casa, ho mangiato ed è un bel strano, vado ad alzarmi dalla sedia e non ci riuscivo. Allora siamo andati a Sassari, mi hanno fatto le lastre e avevo la testa del femore fratturata. Quindi dopo mi hanno sistemato, mi hanno fatto la testa del femore nuovo sull'anca destra. Cazzo da video su cui sempre, andendo con ghissa anca, che l'anca mia, la sinistra, da quando mi hanno toccato la schiena è cancarabba. Cioè io la muovo, la faccio, però quando molte volte viene tipo l'infermiera dell'Adi con la scusa della pressione, oppure prendermi il prelievo per fare la trasfusione a Sassari, e magari mi dica al piede, mi dice Gianni solleva la gamba, dice sollevo, dice io la sollevo, aspetta un attimo, fammi concentrare, vedi come te sbumata e la giri tu e piano piano, però più di quel tanto, se io voglio mettere le gambe tipo su una sedia, tipo la sedia di scuola, diciamo così, una di quelle sedie basse, capi, non ci riesco a mettere le gambe sulla sedia perché i nervi rimangono talmente in tira che pari una crina di cavallo che si mette gli addocchi, non ne so, come Gurichel. La nervatura mi quella di sotto l'interno ginocchio, diciamo. Scusa un attimino, già che mi ha chiamato mia figlia. Vai tranquillo. Franco, oh Franco! Oh, yeah, va bene, va bene, così. Bubu. Oh, Iulia! Avanza a tenere la Ruzzi, Fra. Vai, capi. Cioè, da tenere la Ruzzi? Nel delineare, nello ZG. Allora, che battino, ma lo ZB, dove i amplificatori? No, secondo me la lampadina, magari si sta, non lo so, gruffiro, il filamento dentro la lampadina, a furia di magari accendere e staccare, boh. Però pare funziona di tutto, eh. Sì, la lampadina è chi ha problemi, no, non è nulla, non è niente, quella lì, quell'amplificatore, quando è un po' freddo, quando si scarica lo apri e ti cambi la lampadinetta col coso ed è un attimino. Io sto controllando un alimentatore grande che avevo, un alimentatore mano da 40 ampere che è in corto e me lo so con controllenga, mi devo samarando e giunto, boh. Sarà che condensatore, che diodo. E chi si sono buoni gli alimentatori 40 ampere? Già lo so che è buono, già lo so che è buono, questo è un buon alimentatore, è un opto 40 ampere, bello, però devo vedere cosa camera di zona è giunta, chi, già, no, chi è, vedo a vedere un poco di cose. Sto controllando i condensatori uno a uno. Se ti mando la fotografia dei condensatori ti pongo le mani in capo. Allora ti mando la fotografia dei condensatori e ti pongo la pinza a fianco. Minimo giocante non è pulito su quei frutti. Bravo. Sono quanto la lattina e Coca-Cola, appena più stretti. Già è nuda ya, io si sono minimo 500 picco Faraday. Sono 5600 UF 75 volt. Togli so chi si veranicati all'epoca degli impianti stereo, al posto di mettere uno di quei condensatori che usavamo noi da un milione di microfaraday o picofaraday come ti si chiamano, che avevano il display per dare la carica al subwoofer. Uiuia. Io ce l'avevo. Era un condensatore da, c'avevo due condensatori da 2 farad. Era un accumulo di corrente, capito? Era un accumulo di corrente, però dopo dici la radioattesa ne manco mezz'ora. Che ti chiudi in terra la batteria 70 aperti e la chiudi in terra. Io lo so Gavia, che una dira mi di più in macchina. C'è tuttora un lettore DVD piccolino dell'Alenco, era collegato all'impianto stereo con lo spinottino bianco, giallo e rosso per video, audio, comunque collegato al televisorino al centro del cruscotto della macchina, perché mi avevo fatto il televisorino anche. E ci stavamo guardando Fast and Furious 2, mi pare, Tokyo Drift o non so cosa. Se mi arrivi da un punto dove la voce stava cominciando tipo un po' a svaneggiare. Alla fine si è chiudato tutto in macchina, non attendeva né macchina né nulla più. E ho messo le ragazze a spingere. Ho detto io spingete, sennò no che dovremmo tutta pida a casa. Ma che? Ma che? Senza proprietà dei russi. Senza proprietà dei russi. Sì, oh iuia. E invece un giorno a una gliel'ho fatta più bella ancora. Praticamente uscivo a Sino, io al curvone su alla scala lì, e niente. Aspettate, mi sempre in ghibe, vista sempre innanzi, sempre innanzi. Alla fine, andiamo a farci un giro, andiamo a farci un giro, gitta io, andiamo a farci un giro. Ed erano tipo, forse erano 10:30, 11 di notte. E quindi se ne erano quasi ritirati perché era tipo inizio settimana, adesso non mi ricordo se era martedì o se era mercoledì. E comunque gli ho detto io che ci andiamo a farci un giro alla marina, a Platamona, e magari se c'è qualche baretto aperto ci prendiamo un tosto o qualche cosa. Morale della favola, abbiamo trovato tutto chiuso e abbiamo preso due pacchi di patatine dove li abbiamo presi. Forse siamo durati in Daridu e li abbiamo presi al bar di vicino al pescatore, cioè il pescatore e l'altro bar che vendeva le sigarette, sotto da il Tolucca lì, forse c'è lì più in giù. Esatto, sì, il Tolucca, il Tolucca. E ci siamo parcheggiati, Gavi, dove adesso hanno aggiustato quel ristorante che ha le finestre grandi di vetro, no? Quindi di fronte c'era il muretto di pietra, il pezzettino della spiaggia, la casetta vecchia del barbone dove si addormentava, e poi più in avanti c'era il lido iride tutto rovinato. Ed eravamo lì, finestrini a metà, si stava bene d'estate, non c'era né vento né niente, e si cazzia bene. Tutto ad un tratto, a Rusè cosa ha fatto Ghiglia? Scusa già che sto parlando in verticale. Arusai cosa? Arusai cosa ha fatto Ghiscia? E cosa ha combinato? Nuda, sta stato prima lo finestrino mio. Avvisi perché c'avevo i comandini sia vicino alle marce che nelle portiere. Sta stato lo finestrino mio, sta stato lo finestrino giù. Non so come ti dimmi la baglia, ha cominciato a cavarsi in maglietta, maglioncino e tanto va via. E tu, ma io sono innamorata di te, qui, lì e la sta cosa. Allora vedi adesso cosa hai fatto. Ah va, come ti dimmi la baglia, tu ti do rapponi tutto. Si è messo tutto, andiamo a mettere in moto e non ebuni in moto la macchina. Ma chi era sempre con lo stereo andendo, ci di lì, ci di là. Gli ho detto, me adesso tu te ne scendi, io metto in folle, accendo il quadro, tu mi spingi un po', io metto la seconda e metto in moto e ce ne andiamo, va bene. L'hai lasciato a piedi. Hai impinto la macchina, capi, come entra pure in moto la macchina, hai giocato una mezza accelerata e sgommata, adesso con barco da mille guida, boh, no, non mi lasciare qui, non mi lasciare qui. E ho fatto il giro di nuovo. Grazie tizia Giauda, a un areno quasi che si nello stop giosso. Ma dici, non me ne fare più di queste cose mie, mica io quando tornavo a sosso passavo in casa e ti denunciavo, magari a me, mica gente sono io che denuncia a te che mi ristocchi di zende, mi tratta la macchina, ma pure i gabusi, non me ne va più a me queste cose. E poi che rufuso. Ma che? Avrassa da piedi, ebbene mi negoro bella mia. E allora chi sarà convinta che ero mezzo, lo sai, che magari mi abbindolava così con due dittarigi, ci t'ascolta, non me ne va più a me di questi bassadi. E tu se stai cercando campo d'atterraggio che ti vuoi fare a che figlio ruba il gonzo tu, a chi viene alla moda al periodo, che tipo a signori e si fa nei figliori da voi, ha detto che già l'aiutava l'assistente sociale, no? E non aveva ne bisogno di rubare, però pure nei figliori. Ho detto no, tu sei bagliando i bassoni, ho detto a me mi piace troppo la mia libertà, e quindi a me di che si bizzi non me ne devi fare né tu né nessuno, a parte la gente non sono né un ingenuo né uno stupido. Quindi la gente fa una cosa, se cade in un altro campo a terra, se sei troppo ti hai buttato a fare un giro oggi, e da oggi non mi vedrai più, non me ne domanda più manca fammi un giro, perché non te ne faccio più, manca ne tengo di giro. E poi così, aspetta cosa mi ha detto, parsimonioso, ha detto parsimonioso sono, e tu sei profonda, l'ha detto. E si detta. E allora, cazzo, e se cudi la moneta in ghibi, non sai mai in gassero fondo. Vai, l'ha detto, tu sei una sciampaforro, sì, a me non mi butti di così. Sì, perché poi... se bisogna lasciare a te, da chiamare tipo un inguaglia, compreso. Piglia, ti denuncia, non lo vedi, vado e ti denuncia, avrei denunciato. Diciamo, ti voglia fare un servizio e ti voglia futti. E allora, ero periodo, erano tutti canti mezzo di così, ma non era cosa per me. Ha detto, no è cosa, no. Magari erano convinti, capi, con la scusa che avevo, che ero ragazzo, no, a chi? Io ho preso la patente a 18 anni, poi mi sono comprato la Megane, e poi che avevo 19 anni con la Megane, tra patente e tutto, e quindi, e c'avevo la macchina, avevo i soldini miei, la mia libertà, e poi c'avevo il gommone di povero zio Mario che... e lo usavo io e me ne andavo tipo a pescare, d'estate stavo vendendo l'umacco in gommone, uscivo da Marrizza, da Tonnara, e andavo lì alla Marina di Sorso, alla Risacca, da Mallauga, che bussa, quando c'erano altri amici, e tutti erano convinti, magari, cazzo che ero, chissà, lo figlio di ragazzano, la rira, piacetti, cazzo di Sorso, c'è la Megane rossa, c'è soldi quel ragazzo qui lì là, ed io mi piantato di una giabatta vecchia, un po' di volte da chi mi chiamava nonna e mi buoniva che disincomunia franchi nel polso della mano, cioè nella mano, no? E stasi a me non ti fa vedere dal nonno, me non ti fa vedere dal nonno, che sennò da buzza tocca stare in 20 anni con nonno, e io vabbè. Il pollo della benzina o figlia delle sigarette, va bene, no, ciao, è perché abitava sotto casa qua. E io molte volte quando poi rientravo e gli portavo qualche pizzetta farcita, io e poi erano incontenti. E che buono lo so, a me mi veniva il gozzo di cuscini, infatti mi stavo ritirando, magari mi ho preso una pizzetta e dico, beh, gira, prendo altre due pizzette, se sono ancora svegli. E gli busso la porta e si la magna, né no. E una notte invece praticamente erano svegli, si erano abbandonati, chi sono dei pacchi, e non lo so se erano le 11:30, comunque mi ha detto, mio figlio capita, a che sole, già taglio magari, però già me lo magno un mosso, dai già me lo magno, da cui me la magno domani, mi ha detto, e via, va bene, no, e se non ne magna da l'indomani. E mi piaceva a me quando c'era il periodo di fanè, di pizzette, mi fa di abbiazzini bussavira, che li vedevo, come si dice, più armoniosi, dai. A chi se no era sempre una monotonia, sempre la stessa monotonia per loro. E quindi ero fatto di così, no, non me ne punivo di problemi. Ma stai scherzando. Quelle già sono le cose importanti, quelle sono cose importanti, cose che hanno gradito sicuramente, anche non sono tutti i nipoti che fanno queste cose. Dai, ma il nome li zecca in giuro, ma comodità e basta. No, ma io molte volte quando uscivo da casa, che scendevo giù, no, cosa ne so, quando avevo il motorino, la Vespa, oppure dopo mi avevano comprato lo scooter, perché lo voleva proprio mio fratello Roberto, e ha sempre fissato Guru Booster. Siamo andati da motorbike, da Vadilonga, o come si chiama, chissù, e non ne aveva di booster, c'aveva quei garilli tipo che venivano nei biatti, e poi c'era Little Jet Pista, Little Jet Bazooka, lo Zip, poi che moto c'era, non lo so. Comunque a Roberto Di Biasia gli è piaciuto Little Jet Pista 2, perché praticamente aveva tipo tutto il culo che sembrava quello del booster, però davanti rimaneva a punta con i fanalini al posto di averli nella mascherina, davanti ce li avevano sulla mascherina del manubrio dove c'è il contachilometri. Però alla fine come motore e tutto il resto era uguale, cambiavano solo le carene, là. E niente, poi alla fine, ma io avevo già la Vespetta tutta canta mezza canniciata che mi rivende in officina. Ma cosa dici, la prendiamo anche a te, alla voi, dai, così la stiamo prendendo e non ci pensiamo più. E ce n'era una blu mi sembra e una verde, verde tipo un verde topazio, era, boh. Io ho detto, va bene, allora io voglio quella verde lì. Roberto la vuole chissà niente, io ho detto quella verde lì. Comunque comprata la moto nuova, Gabi, sempre quella vecchia che si sciveva, che si entrava a tronca dura in un gnarucco. Mi piaceva andare tipo qua vicino dove abito io e dove c'è Franco lì su è tutto un campagnetto. E quindi io entravo con la moto vecchia, grazie a cosa ne so, la appoggiavo in terra, non vedi buchi che non mantenevo il gavardetto. E cazzo mi faceva una busta di aranci, una busta di mandaranci, tornava a casa, e dove eri in giro, tu sei mancante, mi diceva mamma, perché mia madre di Sinuri, mio padre di Sorso, cazzo, e dicevo, non è niente, la gente viene a ranzi che su fruttetto, buoni che buono qui, e niente, e mi divertivo così, poi un po' di volte, d'estate, allora c'era il periodo dove tutti andavano a Tre Fontani, che praticamente più su di Giorra, la zona di Giorra, c'è un vascone dove scende l'acqua naturale, c'è un fruttetto, e andavano lì a prendere i verduni, i cardellini, l'Uzzuì, che sarebbe il canarino selvatico. E niente, quindi anche noi abbiamo fatto quel tipo di percorso, pigliando i gattedini, poi a un periodo abbiamo preso tutto quanto H4, Tiki Mucchi di Irani, piglia dici, guida amico mio, Alessio, ciao, carta e farà da casa sua, ha pigliato due banini e mezzo sacchetto di Sarip, e ci siamo messi a fare il fuoco lì vicino alla fontana, e ci abbiamo arrostito questi uccellini, a tipo come ti zampesi, così alle bizzone, li pesci, con come si dice, di guru buddone della Rivario, della Riva, abbiamo fiato guru buffido, abbiamo fatto lo spiedino e abbiamo cucinato questi uccellini, uia. E non ne viene il padrone di una campagna lì che aveva le pecore, e praticamente Zappi Sighid e Sabriada che ha detto la via mi imbustina dureva della fontana che dovevano bere le pecore, e noi invece avevamo pulito gli uccellini e quindi l'acqua nel pezzo, si può dire a vasca, diciamo, era turbida, perché però bastava affittarsi qui 10 minuti e si era fatta gira a dorare tutti i fuggi, diciamo, e poi girava i fuggi. Di là fa la i bisogniti da papà, se cosa ti dice, dicono cosa, dai. La carità, noi ti guardiamo nei campeggi, già, ti guardiamo nei campeggi, non intendi rubescio, la domenica, quando vedo tutta canta la gente, non intendi rubescio, mi accasino di mazzam e la di bescio, chi vi lo bagna asciugato, ma che non va a ma che non ti nanda garetti, se bongani, e fate l'affare i due, tanto mai di chi vi rubescio, mi accasino di sangue, di mazzam. E così eravamo noi, da che il Zebedo era bistino cosa. Allora, la ragazza, la sigaretta. Scusami Gabi. Allora, un anno invece eravamo tipo dove c'è il primo Risto Bar, hai visto quel bar e ristorante dove hai detto tu che sei andato e hai mangiato e bevuto il vino rosso? Sì, dove c'è la discesa a mare. Esatto, ce ne siamo andati sulla destra, abbiamo fatto questa di Bussudì, 100 metri, 120 metri, e sulla destra, nella cunetta della sabbia, diciamo, c'era un'entrata tipo di pinetta, no? Dove c'era uno spiazzale e degli alberi che rimanevano tipo piegati dal vento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo delle tende lì sotto quegli alberi tipo piegati, perché erano altezza nostra, giusto per non scendere gli aghi di pino, la cosa, e ci abbiamo portato un tavolino, una banca era, una banca e tipo i banconi per sederti e qualche ombrellone per fuori. E niente, piglia da buoni farà massimo un amico mio, un Y10, e non ha farà uno di questi barbecue, non di quelli rotondi tipo a, come ti dico su di a, era di quelli quadrati, però di quel tipo lì, di questi col cane bogo, di questi di lamiera. Ed è passato questo turista e praticamente si è affacciato, è salito alla dunetta, si è affacciato e ci ha visto a noi con il barbecue e si sentiva la legna, tic tic, rosai i pini e pinuli, tutti bruciacchieni a chi abbiamo fatto il VQV. Però prima di mettere il barbecue abbiamo fatto tipo un fosso, sarà stato alto 20 cm, 30 cm, e in giro tutte le pietre. Poi tipo vegetazione in giro non ce n'era. Fiamma non ce n'era perché avevamo il carbone più qualche pezzetto di legno e qualche pino, e quindi fai che faceva anche la fiamma di un pochino, ma non era una fiamma che potesse dar fastidio. E ha cominciato a dire, non si può fare l'arrosto in pinetta qui lì, ha cominciato a mangiare mettere un gabbo. E piace invece l'amico mio che do rimane tipo Tino Maduro, così rimaneva, sai, robustello, e la dice, ascoltami un attimo a me, ma lei da dove è venuto? E dice, ma e allora vada dove sta andando, vista la binetta, la mia, non ha compreso, forse lui mi piace, cammina e brinca il rubetto della muraglia dai nocchi, l'ha detto della sabbia, e non si entra più a rompere il guglione ai nocchi, e qui noi siamo una famiglia, non hai capito? Siamo una famiglia qua, se tu sei venuto a rompere i coglioni perché noi ci stiamo facendo le pancette arrosto, non venire a romperci le scatole, si sono fatti di bene zitti a chiuso, a forse rimane in Dareddu alla fine e ha cominciato a camminare come te lo menevici e si è avviato, non sei più vilto, capo, più vilto, anche noi non mi vuole di capo. Dai. Comunque erano cose che ti facevano ti facevano ridì, che poi alla fine erano anche una sorta di divertimento sano, noi ricapazzi di vammare una moja, allora sono muti e mari, ma proprio cattivi di animo questi ragazzi, per carità, la carità. Io devo chiudere che è pronta la cena, noi ceniamo presto, dopo ci sei? Sì, vai tranquillo Gav, non ti preoccupare, intanto io sto qua ancora un po', a chi tanto non fa sdraiarmi, non fa che da voi me ne cudo in terra e sogo tutti i santini, altrimenti no. Quindi mi sto un po' qua da adesso alla radio, magari giro qualche canale, se no mi giaccio la radiolina, mi metto 105 e accorco a vedere un po' di scemenze che disini. Poi del resto continuiamo, là. Andavè, allora buona ricarica Gaffi, nel caso ci sentiamo dopo, già sono qua. Magari entra la parente a Franco, Tino, qualcuno. Andavè, appetito. Sì, magari dopo ho detto che c'entra a Fattino a farsi la chiacchierata. E ya, ceno già, questa da poi mi cocco questo curizzero, sennò io se ceno e mi curico subito, aspetta, sciogo tutta cantare la notte, ma arrivatessi. sentiamo dopo, ciao Gianni. K, a dopo.